America 24 di Mario Platero. So it is a, it isn't going to make any difference except maybe the mood that people are in. But the fact is once we pass it in the House, it's going to be the law of the land. The law of the land. Una volta che la riforma sanitaria sarà approvata alla Camera, diventerà la legge della nazione. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Mario Platero da New York, Nancy Pelosi, presidente della Camera, è pronta a tutto. Si sta rendendo conto che per mettere insieme questa maggioranza di 216 voti di cui ha bisogno per passare appunto alla Camera la riforma sanitaria, diciamo ci vorrà ancora un po' più di tempo. E dunque ieri è venuta fuori con una con un annuncio, diciamo così, provocatorio, poco ortodosso, e cioè ha detto: approviamola questa legge senza votarla. E l'idea della Pelosi non è uno scherzo, perché fra le pieghe dei manuali procedurali per il voto in congresso ha scoperto una regola, la cosiddetta self-executing rule, che è chiamata in gergo anche dim and pass, che consente di dare per votata la versione del progetto di legge del Senato, e a quel punto la legge viene adottata in pieno. Il problema è che questa regola viene applicata per situazioni del tutto diverse, quando c'è ad esempio un progetto di legge su cui tutto sono d'accordo ed è più importante procedere con urgenza piuttosto che affidarsi alla formalità del voto. In questo caso no, è una battaglia epocale, è una riforma storica, è un pacchetto di spesa di 875 miliardi di dollari, e dunque quest'ultima manovra dei democratici dimostra in qualche modo quanto sia difficile far avanzare questo progetto di legge e soprattutto quanto sia difficile raccogliere i voti. L'altro grande argomento che ha dominato ieri il dibattito in America resta la polemica con la Cina sulla forza dello yuan. Due senatori importanti, uno repubblicano e uno democratico, hanno proposto una vecchia legge, l'hanno rispolverata, che prevede delle tariffe per le importazioni cinesi, tariffe che potrebbero arrivare fino al 10%. Per tutta risposta la Cina ha convocato le grandi multinazionali americane consigliandole di fare delle operazioni di lobby su Washington per evitare che si proceda con questa idea del protezionismo. Ma la storia vera di cui vorrei parlarvi oggi, che invece si è compiuta, è una storia piuttosto curiosa, riguarda le lavatrici e le lavapiatti. Bianco che più bianco non si può, è una pubblicità di Tide, noi lo chiameremmo Tide, della Procter and Gamble, il detergente per lavare nella lavatrice, oppure diciamo il simbolo delle pubblicità per i detergenti in genere. Perché vi propongo questa pubblicità? Perché ci siamo resi conto negli ultimi giorni che dal punto di vista della reazione dell'opinione pubblica americana c'è un trionfo del personale sugli argomenti, diciamo fra virgolette, seri e collettivi. Come avete sentito, ci sono mille polemiche sul fronte fra virgolette storico, battaglie in congresso, battaglie con la Cina. Eppure la storia più letta ormai da tre giorni, quasi quattro giorni, sul New York Times è una storia molto tecnica: come risparmiare sul sapone per la lavapiatti. La storia più letta negli ultimi 30 giorni è una storia che riguarda la depressione, anzi gli aspetti positivi della depressione. E invece la storia più letta negli ultimi 12 mesi riguarda il suggerimento di comprarsi un cane, un cucciolo. C'è forse qualcosa di strano che sta capitando nell'opinione pubblica americana? Bene, ne parliamo con Massimo Piattelli Palmarini, ordinario di scienze cognitive all'Università dell'Arizona. Professore, cosa succede in America? Allora, oggi la gente è in grado di scegliere, ma oggi la gente ha anche molteplici preoccupazioni, molte più di quante ne avesse un tempo, proprio perché ci sono tutti questi messaggi, tutte queste cose che arrivano, quindi sono molteplici. Un'altra considerazione è che in una cosa come l'economia, vasto problema, ci sono delle piccole cose che uno può fare effettivamente. Allora, risparmiare sul sapone della lavatrice. È una cosa che mi tocca direttamente, perché il debito nazionale io, con privato cittadino, non posso farci niente. L'inflazione, queste cose io non ci posso fare niente, della riforma della salute non spetta a me farla, eccetera. Ci sono delle piccole cose che invece io posso fare. E quindi questo qui è importante, perché è la mia partecipazione minima, ma è una partecipazione diretta a un processo molto più grande. E un altro aspetto forse è quello che c'è il trionfo del personale su quello che è il collettivo, sì, diciamo. Certo, beh, questo lo si è visto sempre di più nella scienza, no? Ormai si fanno delle domande di fondi per la ricerca, si vogliono risultati entro 3 anni, va bene? Mi diceva il premio Nobel Perutz, Max Ferdinand Perutz, che recentemente è scomparso quando venne in Italia, lui ha lavorato per 25 anni alla struttura dell'emoglobina, ha fatto dei lavori che resteranno nella storia della scienza, e mi diceva, dice, oggi nessuno potrebbe fare questi lavori, nessuno ti finanzia per fare dei lavori che si protraggono su 10-15 anni, l'orizzonte delle preoccupazioni si è enormemente ristretto, 1, 2, 3 anni, 4 anni al massimo, e poi tutto si ferma lì. Ecco, professore, posso farle una domanda? Ma lei che detersivo usa per la sua lavapiatti o la lavatrice? Lo sa? No, ma devo dire, io sono sposato, mia moglie fa queste cose, però io credo che quando sceglie un contenitore comodo da portare a casa, comodo da maneggiare, di una misura giusta, credo che va a guardare quale costa. Credo. Sì, e tra l'altro la conseguenza dell'usare il detersivo migliore è anche che non hai bisogno di riparare la lavapiatti, cioè la lavapiatti non soltanto risparmi sul sapone, ma dura più a lungo, e quindi lavapiatti, lavatrice, asciugatrice e così via. Certo, quindi è il prevalere del domestico, ecco. È un nuovo linguaggio di comunicazione, secondo lei, che noi abbiamo? Non mi sembra che sia sempre stato quello, solo che quello che è cambiato sono questi orizzonti diversi che abbiamo, orizzonti di preoccupazione diversi. Non lo attribuirei a un cambiamento di linguaggio, è quello che è sempre stato. È il cambiamento purtroppo di orizzonti, si pensa molto vicino. E anche molto vicini a se stessi, quindi non soltanto l'orizzonte. E molto vicini a se stessi, certo. Le viene in mente un altro esempio di quello che potrebbe essere un interesse personale rispetto a quello pubblico? Qui abbiamo visto le lavatrici, ma cosa le verrebbe in mente? No, però un altro esempio simile a quello di cui parliamo è, mi risulta che i meccanici di auto stiano vivendo un periodo felicissimo, perché la gente non cambia più l'auto, non ha i soldi per cambiarla, e quindi in America senz'altro, mi risulta, i meccanici di auto, se uno oggi vuole, un giovane volesse guadagnare onorevolmente, fa il meccanico di auto, perché la gente porta l'auto a riparare, non la cambia più. Questo che mi sembra anche un trend significativo di questa crisi. E dunque, ci dice il professore di scienze cognitive Massimo Piattelli Palmarini, il futuro è dei meccanici. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno. A 9 mesi dalla scomparsa di Michael Jackson, i suoi eredi sono riusciti a firmare un accordo molto importante, $250 milioni con la Sony, per poter mettere in circolazione 10 nuovi album con molti inediti e con naturalmente molte vecchie canzoni da qui al 2017. Uno dei CD in preparazione sarebbe addirittura una collezione di brani mai usciti. E dunque celebriamo ancora una volta Michael Jackson con Thriller. Bene, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.